toglie perché sai come fatti, c'hai due battiti ravvicinati, tipo tum, tum, tum, tum, e poi una pausa compensatoria tipica, due battiti ravvicinati e una pausa che si la chiamano i medici compensatoria, no? E poi riprende il normale battito. Però nel momento ti toglie il fiato un pochino, e magari pensi, mi ci siamo, speriamo, speriamo. Ma lascia perdere, fregatene, sii ottimista, tanto mi pensare al male o pensare al bene, quando sarà il nostro turno ci porteranno e ci scenderanno, quindi che cacchio ce ne fa, prendi la vita per com'è. Io la prendo nell'ottimismo, poi se capitano cose brutte, dal brutto cerco di trarne sempre il beneficio, capito? Vediamo un po'. Chi è entrato, Luca? Ehi, qualcosa come? Ehi, dai, ciao Tino, ciao Marco, sono mangiando un pezzo di pizza. Ciao, ciao, ciao. Com'era quello sketch di Piero Mani Anticorpi? Ah, te lo mangi un pezzo di pizzetta. Quello che aveva quella specie di costume tipo Superman, bruttissimo. Anche, Sandro Pedivella. Ehi, quello del Pino e gli Anticorpi, adesso non ricordo i nomi singoli. Mi ricordi quando facevo gli spettacoli in Piazza Italia? Mamma mia, che ride. Ma non c'è più la moto, sì, ce l'hai sempre. Sì, allora non vedo la moto da credo un anno e mezzo, forse anche due. Praticamente sul cavalletto in garage, ferma da circa 3 anni, proprio nel dimenticatoio, come che non ci sia. E ti dirò, Luca, che non me la sento tanto di pigliare la moto, perché la gente è matta guidando in macchina. Cioè, io non temo per me, perché io sono tranquillo guidando, temo per la guida degli altri. Che moto è, Marco? No, moto è un ridicolo scooter, è un Piaggio Liberty 125. Cioè, bellino, no? Ma è la versione quella più recente, non quella femminile di tanti anni fa. È una versione un po' più carina, dai. Solo che non è giù che mi voglio scendere, il garage non è qua sotto, è in un'altra via, andare lì, cancello elettrico, poi prendere le cose del garage. Insomma, ci ho un po' perso anche la passione della moto, dice, prima ne avevo di più, sai, fissato con questo mito Harley Davidson, però poi no. Non aggiungana. Quattro ruote sei più stabile, sei più protetto dagli altri sempre, perché io ricordati, poi dal 90 la patente B, mai un incidente. In macchina mai un incidente, in moto 3 subiti, anche se fesserie, cioè proprio fesserie, 3 subiti, di cui 2 erano in cattiva fede, cioè la colpa era mia, mi hanno buttato a terra, ma la colpa era mia. Ho capito. No, io sinceramente la vorrei prendere una moto, solo che, caspita, costa l'assicurazione, costa quanto vuole la macchina. Infatti il mio figlio ha detto, no, ne compro 50, ti compro 125, una volta che hai la patente, vedi un po'. Ma la vendi, Marco? No, lui, no, poi è ferma da anni, cioè bisogna prima lubrificare il pistone, farla muovere, cambiare la batteria, c'è roba di 2 bolli arretrati, se non 3. E dovrei provvedere, perché se non paghi il bollo 3 anni consecutivi, c'è la remota possibilità, non tanto remota, che venga radiata dal PRA, lo sai, la devi ritargare. Non so cosa fare, se c'è un bel caschi poi, no? Ma Luca, tu non avevi lo zip poi? Sono sempre lo zip. Ma è, come ha detto Tino, conviene fare una circolazione a 125 piuttosto che farla a 50, ti prendono di più, Sì, confermo, Tino. Guarda che io avevo chiesto anni fa un preventivo per un cinquantino, giusto per la città, e se vai in certe tipo Unicredit, mi hanno chiesto cifre folli, tipo 600 euro, so per dire, ma voi siete malati, vabbè che sono banche, mi Unicredit, assicurazioni sono ammagati con banca Unicredit. Invece il 125 già paghi, ma molto meno. Infatti conviene, non so che età abbia tuo figlio, li conviene pigliare, mi pare, non so come sia adesso il patentino, sono passati troppi anni, no? E poi pigliare un 125. Sì, mio figlio ha 14 anni, quindi sinceramente ho ancora qualche anno per pensarci, non è che mi frega più di tanto, non è che la sto comprando da oggi al domani, però niente, se ne trovo una magari accessibile che vada bene anche per me, visto che stiamo arrivando contro l'estate, l'avrei utilizzata anch'io nel frattempo, capito? Poi a me le moto sono sempre piaciute, anche non di bassa cilindrata, io ho avuto molte di alta cilindrata, quindi già la Vespa per dire 125 non mi sedevo, mi sentivo piccolo. No, io vabbè, roba più contenuta, anche tipo Z250 oppure Honda 400, però facevo anche per ridurre i costi, tutto di bollo, di assicurazioni, di consumi, e poi le compravo usate, io moto nuove no, assolutamente, spendere una cifra così alta per una moto nuova no, assolutamente. Io non so come sia per il patentino, però credo che debba aspettare almeno i 16 anni. Guarda, sono cambiate troppe cose. Io ricordo solo che quando usavo il cinquantino io non esisteva la targa, era come una bici. Non esisteva assicurazione, non esisteva obbligo casco perché ero già maggiorenne. Poi hanno cominciato assicurazione, targa, casco, in due, era vietato anche prima. Doppio run, non rimanere in bianco, riprendi. Ehi, c'era una portata a 5 turni. Pirururì, quella portata la conosco a 100 km di distanza. Che per mettere il bambino dentro la muri e tu passavi lo stesso. No, ma sarà qualcuno che non esce. Aspetta, perché il bip è il leoncino. Leoncino, stai uscendo di radio, vieni avanti. Vado a vedere Marco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì. Adesso stai uscendo, prima non lo so. Comunque stai uscendo, dai. Compagnia di Gianni, Tino, Luca, chi altro? Vai Luca. Vabbè, comunque buonasera a tutti quanti i componenti del canale. Grazie. Scusate, stavo facendo una prova, ok? Ciao Giuseppe. Ciao anche a Luca. Avanti, Luca. Luca è un grillo, salta a destra, a sinistra, come me fa? C'è e non c'è sul canale, un fantasma. Poi, così è sempre. La radio com'è adesso, Marco? Oh, com'è? Buona, come deve essere, come prima. Anche prima era buona. Ma è amplificata o no? Perché se no ci rimetto l'eco, No, va benissimo, amplificata. Basta che non metti l'eco. No, comunque già io tengo, siccome siete abbastanza forti i radio, io tengo il volume basso, capito? Cioè non troppo alto, anche perché mi prende la testa, non è più come una volta. Anche le cuffie tolleravo una volta, adesso se metto le cuffie tipo 10 minuti mi viene mal di testa. Riprendi Tino. Allora guarda il cane, è pari un vecchio, fammi bene. È vero, Attenzione Marco, Honda, se mi senti qua, cambio. Eia, adesso è leggermente più forte la modulazione. O hai alzato tu la voce oppure hai aumentato qualcosa? E io già sono un po' così, sempre mi lamento, cioè 50 anni non sono né 40, né 30, né 20. Qua stanno passando un po' troppo in fretta i decenni, è preoccupante la cosa, Tino, dovremmo fermare il tempo. Per fermarlo devi morire, quindi è meglio che vai avanti. Vai, qua umane. No, a me sinceramente non frega niente, anzi, io sto bene come sono, grazie a Dio mi sento in buona salute, quindi anche se ancora non li ho fatti 50, quindi mi manca ancora un po', però sono lì per lì. Guarda, io lo dico scherzando, ma non troppo. Io forse avrei venduto l'anima al diavolo pur di ritornare bambino. E che il diavolo non esiste come tutto il resto, e quindi non si può. Questo lo dici tu? Sì, sì, è un pensiero personale, cioè. Com'era quel film? C'era un film che dice una frase, dice, se esiste, aspetta, il paradiso, dice, siamo rovinati, io sono rovinato, perché di conseguenza esiste l'inferno, anche quello dopo averne combinate molte, quindi sapeva già di dover finire all'inferno. Allora, vabbè, io sono un po'... Ah, io devo dire la verità, io sono un credente, però non credo nei preti. Quindi non vado in chiesa, sono credente a modo mio, ecco. Sì, no, vabbè, la chiesa lasciamo perdere, si è bruciata in tante cose fatte in passato, cioè secoli fa, dico, o ti convertivi o ti ammazzavano direttamente. Per carità, e tante cose, casini che hanno combinato, anche loro sono uomini, quindi pensano ai loro interessi e tutto il resto, Papa compreso, secondo me. Anch'io potrei essere credente a modo mio, potrei credere in una specie di ente superiore, un'entità, come lo vuoi chiamare, il grande architetto, il creatore, ma a seguire la religione cattolica no. Oh, io non sono né cresimato né... nemmeno ho fatto la comunione, per fortuna mi hanno fatto scegliere in famiglia. No, io vabbè, ho seguito quello che al momento era giusto fare, poi nel crescere e vedendo soprattutto quello che stava succedendo, tipo preti pedofili e quant'altro, ho deciso di non credere più nei preti, ma essendo sempre credente a modo mio, ti ripeto, poi quello che fanno gli altri, cioè delle suore, clausura, che poi viene a sapere che ci sono bambini sepolti da anni e anni, cioè quelle qua lasciamo perdere. Sì, sì, lì si è toccato il fondo, anche quella storia di quella ragazza che era scomparsa anni fa, che forse avevano trovato le ossa, non mi ricordo dove, e poi alla fine il prete sapeva, non sapeva, invece forse ne sapeva anche troppo. E infatti, anche il Papa c'ha una faccia, non mi sembra molto convinto. E vabbè, contenti di tutte le religioni, sono così, tutti musulmani, anche la religione ebraica. Infatti, dai, non facciamo discorsi però complicati, che mi sta venendo l'abbiocco. Luca, riprendi. No, dai, sto portando un telefono. Ehi, a lui. E poi l'avevi risolto quella cosa dell'aria calda, che non ti funzionava un componente di tutto l'ambaradan? No. Ma cioè è roba che si può aggiustare o che ricambi, no? Non mi ricordo se me l'avevi detto. Non si può aggiustare. Sì, cacchio, cioè scommetto che è roba che non trovi singola. Cos'era? Una spira stagno, cos'era? No, è il saldatore solo. La ricca la funziona, la spira stagno funziona. Sì, cavolo, cioè la parte più importante di una stazione saldante è il saldatore, proprio quella non va. Macello è. Dai, riprendete, Gianni, riprendi un po'. Dai, faccio una pausa che vado a bere. Gianni non c'è. Sono assenti, dai, vai, Marco, vai tranquillo, tanto poco cambia qua. Comunque, vabbè, voci di corridoio, poi Pettegolezzi non li seguo, però vari anni fa c'era un sacerdote qui in zona che di punto in bianco è scomparso da questa sede. E si diceva poi le dicerie e si pensava che ci fosse stato un caso di quell'abuso che ho menzionato prima, che non mi piace manco nominare. Sparito, come se l'avessero trasferito d'urgenza, sai come fa la Chiesa? Che copre, no? Trasferito, e per la Chiesa è risolta la cosa, poi. baracchino, poi vabbè, tanti ascoltano, meglio non mettere anche notizie false in giro. Voci di corridoio, diciamo, dai. Dobbiamo tapparsi il corseo. Cosa dovete fare? E poi mi chiedo se loro stessi, molti preti, ci credono ancora. Secondo me quelli invece lo fanno come lavoro, si pigliano stipendio, dicono due fesserie a quelle donne anziane che sono credenti, e loro si intascano il loro bel assegno. Chi è avanti, che ho sentito chiamare? Chi è, Gavinuccio? Io avrei abbassato l'eco, anche perché a me sinceramente non piace, però se a te piace tienilo pure, l'avrei abbassato un pochino, però. Non c'è problema, siamo qua. Tini, quanto ti arriva l'amico? Io qua è Santiago 4, siccome avevo lo squarcio inserito, sai, ogni tanto passa un motore che fa rumore, ho dovuto abbassare. No, vabbè, a me arriva un pochino più forte, Marco, perché diciamo che c'ho la spalla dietro di me, quindi sono assenuli. Allora mi arriva a Santiago 9, Marco, dimmi così. Appena ancora, relativo, parli più piano, se no si accavalla l'eco. Però ripete troppo, capito? Prova a fare un passaggio un pochino più lungo e vediamo un pochino come si ascolta. Già va bene, da camionista proprio. Da camionista, Luca. Io vi saluto che sto andando a portare il cane, ci sentiamo, dai. Ah, ciao Gianni, ti abbiamo chiamato, ma eri, devo essere assente, dai. Mi hanno telefonato, ti scusate, ma non ho fatto tempo ad avvisare. Cosa devo scusare, tranquillo. Ciao Gianni, ciao, buona passeggiata. Ciao Gianni, buona passeggiata, dai. Speriamo che abbia rinfrescato un po'. Guarda Marco, stamattina ero a Trentino, è scesa l'aria, ma sai cosa vuol dire un acquattone che è durato forse un quarto d'ora, 20 minuti, sempre a malattone. Dopodiché giornata grigia, verso ora di pranzo è uscito anche il sole, quindi è una giornata tranquilla. Credo che abbia, purtroppo io mi sono svegliato molto tardi, però mamma ha detto che qualcosa l'ha fatto qua, ma forse qualche goccetta, adesso qua lo dico, qua lo nego. Per il resto avevo anche troppo caldo, nel pomeriggio ho comprato giornali, sono andato in farmacia, poi al market, insomma c'avevo la camicia appunto, ma anche corte. C'è maniche rimboccate, un caldo, mamma mia. Guarda che le buste pesavano, era tutto acqua, vino, latte, roba pesante. Perché c'era aria, come si chiama? No, non aria. C'era tempo. Sì, vabbè, quando lo ricordo dico, Marco. Umidità, mi è arrivata. Figa. Non c'è nessun altro, no, lo stavo dicendo a Gianni all'inizio, stiamo un po' languendo il 10, almeno io, vabbè, non entro sempre perché non ho voglia, però poca roba qui, cosa che faccio, anch'io ero un po' in stand bike, così, Gavino, sì, Marco, vabbè, Marco, se puoi alzare appena, vabbè, ti ascolta basso. Tino, solite condizioni, cioè io non lascio mai nulla qua inserito in serie, no? C'ho solo il filtro, purtroppo mi abbassa da 4 a 3 watt. Dovrei stare a cambiare apparati, no? Per adesso dai, fa niente. Va bene, dai. Niente, io dico così, diciamo che la trazione sua è quella al momento, quindi non può migliorare. Va bene, credo c'è a Sassari, ma non solo, né via né luogo, quindi. Giorno, un riferimento grosso, Cinema Ariston, il più vicino è il Cinema Ariston, Viale Trento, digli, dai, Viale Trento Alto. Viale Trento Alto, capito. Se non sbaglio ci ho fatto un'entrata. Forse è Gianni col portatile, vediamo. Ma chi è? Capri? E dove sei? Santiago 4, radio 3? Lo senti ti? Sì, Santiago 3. Ma è interrogativo, sei senza antenna o sei con antennino? Perché il tuo segnale non è mai stato così basso, Capri. No, ma non è normale. Ecco, registrato un attimo. Ha registrato, adesso lo mando avanti. Capri 2, però è strana la situazione, perché 1,5, vabbè, puoi avere un infinitesimale calo di potenza, ma tu sei passato tipo da 8,5 a, che come arrivi di solito, a Santiago 4, c'è un abisso, c'è qualcosa che non sta andando lì, secondo me. Mi pare che è tratto Roberto, lui è più in alto. Robe, come lo occupi? Ciao, buonasera, l'ho sentito di sfuggita, quasi 9, Santiago 8,5, dai, radio 5, però è più basso del normale. Con che radio stai uscendo, Gianni? Scusate, Gaguccio, tutti circa, non è 20, dai, un attimino, ciao a tutti. Via, ciao. Gianni, il segnale tuo è più forte, io tu arrivavi 8,9, adesso sei 8,5 di segnale, la radio è sempre 5, forte, squillante, però il segnale ti si è abbassato di tanto e non credo che c'hai solo 1,5 di stazionare per avere un calo così evidente. Vabbè, io sono presentato, non so neanche chi ci sia, ho sentito Marco che mi ha salutato, Tino di sfuggita, chi c'è, qualche donato sul 10? Allora, Luca sta salzando, no, sta mettendo mano al cellulare, Tino ha fatto questa greca, ci dovrebbe essere forse, no, non è doppio run, col portatile, proviamo, doppio run tu eri, no, era Capri 2 probabilmente, sì sì, no, perché c'era uno che sentivo basso con l'eco, poi è entrato Capri e hanno parlato in due praticamente. No, non era Gianni col portatile, perché è sceso a portare il cane, ma credo siamo soli mi. No, forse era questo Gavino che stava parlando con Coso, continuo, l'ho sentito con l'eco, Santiago 7 più o meno. Sì, sì, sì, Gavinuccio, stava provando qualcosa, un microfono, ecco comunque. Gli otto che mangio mi sento leggermente appesantito, mi cala la palpebra, che dire. Ma non c'è nessuno dei sudditi, diciamo Riccardino, Fabio, Giulio, come si sono da un po' che non sento a Bulldozer, Claudio vabbè è già venuto in officina ieri, però anche lui è poco presente. Ehi, avete ripreso in due per un momento, adesso lo mando avanti, sì, oggi vabbè io ci sono da poco, non ho sentito né Riccardino né nessun altro, vediamo chi era l'altro, forse Natalino. Allora già lo sai che sono io che ti controllo. Eia, ben sentito Natalino, è ben entrato, dai. Il lango è un po', anche io però francamente non ho tanta voglia, sto cercando un po' di fare altre cose, se no baracchino. Ok, riprendi tu Natalie. Se continua così ci suicidiamo tutti e due, Marco. Tanto a me forse mi è venuta l'ennia del disco, è per quello che non posso camminare. Quindi equivale a buttarci dal ponte, che facciamo prima. Tu che ti lamenti più di me. Vabbè, la mia schiena comunque è messa male, non parlavo di malanni, se no ti elenco tutto e vinco 10-0. No, vabbè, sì, la schiena, vabbè, no, non ne voglio parlare di malattie, palle. Parliamo di cose allegre, dai, non cose tristi, cacchio, se no parlate tra di voi, a me hanno iniziato tra argomenti di dolore, di quello, di quell'altro, da mamma mia. Ok, Natalia, stai arrivando un bello bomboletto, bollo pieno. Icata, bello bomboletto. Non ho fatto niente. E forse ha preso un po' di acqua all'antenna, l'ha lavata e si sente più forte, vediamo che ti dico. Ah, può essere, stamattina c'avevo le stazionarie. Poi deve essere che ha asciugato e non ne avevo più. Boh, non so che dirti. Guarda, quei picchi superi 9 più 20, mai successo in questo periodo, ti sentivo sempre un po' più basso. Va benissimo, allora, vuol dire che l'antenna come scalda diventa più efficiente, dove ti dica. Quanto l'ascolti tu a Natalino? A 30 ci arriva da te, Marco. Oh, aspetta, perdonami Robè che stavo vezzeggiando il gatto, dimmi. Natalino a 30 ti arriva a casa tua. Allora, fatemi mettere, togliere gli occhiali. Natalì, vai. Guarda Marco, 1, 2, 3, prova. Volevo sapere anche, siccome mi si era scassato che non usciva di radio questo microfono, ho preso e gli ho messo mano stamattina. Allora, diciamo che qua è sul più, al centro proprio del più, della sbarretta verticale è un 9 più 25. Conta una cosa Robè, comunque io non ho l'antenna diretta, io ho uno spezzone di cavo con un filtro anti-TWI per eccesso di prudenza, ma ho notato che mi ruba qualcosina anche in ricezione. L'altro giorno io ho messo l'antenna diretta, a parte il watt che mi ruba il filtro, che non dovrebbe influire più di tanto, ero aumentato, mi pare più di mezzo Santiago, mica è un bemmi, cioè mezzo Santiago 3 dB grosso modo, o vabbè 2,5 dipende se sia oltre 9, vabbè già hai capito comunque, c'era abbastanza notevole la differenza, quasi un Santiago, tra mezzo Santiago e un Santiago di differenza. Ma cioè c'era qualcuno sotto, avanti che voleva entrare, c'era qualcuno che ha mandato qualche segnalito. Rilassati di questi filtri, che cosa sono? Di che marca è questo filtro? RM Italy. Questo attenua di 80 dB le spure armoniche dai 30 MHz a salire. Cioè è fatto per schermare tutta la banda TV, diciamo dai. Però non ho notato che se metto un wattmetro dopo il filtro, anziché 4 scende a 3 watt, capito? Ed è a più celle, cioè non è come la ZG che è proprio striminzita, è tantino migliore, però non c'è niente da fare, perdi sempre. Fammi capire, cioè spiegati meglio, allora un filtro si tara sulla frequenza di trasmissione, cosa vedo? 30 a salire, cosa significa 30 a salire? No, che inizia diciamo a tagliare, è un filtro passo a basso, comincia diciamo dopo i 30 a cominciare a attenuare, buttare giù eventuali spurie armoniche, che poi 30 è, cioè, c'è il grafico, il grosso è sul VHF che le butta giù le armoniche, fino a 80 decibel di attenuazione delle eventuali armoniche. Vabbè, 80 mi pare un'esagerazione. Comunque, è presente, il filtro serve per non fare, per ridurre le armoniche, la seconda armonica in giù. Vabbè, gli altri poi sono, se c'è un'attenuazione, diciamo, bastano 30-40 dB a voglia, poi gli altri sono, non riesci neanche a misurarle. Però non riesco a capire su che frequenza lavora. Il filtro deve lavorare esattamente sulla frequenza operativa, non è che larga banda, non esiste un filtro larga banda, e se dovesse esistere non serve a niente. No, no, no, mi sono spiegato io, no, no, il filtro è per la 27, elimina il TWI, diciamo, tutto lì. Poi una cosa, i lineari TRM Italy consigliano, siccome sono fabbriche di spurie armoniche, questi transistorizzati, che viene male a dirlo, la RM Italy, per chi usa lineare, per chi lo usa, insomma, per chi lo usa, raccomandano di unirlo a questo filtro qua. C'è scritto sul manuale, per rientrare non so all'interno di certe norme, perché se no, vabbè lo sappiamo, i lineari comunque buttano fuori mondezza, non è novità. Vabbè, un volgare filtro anti-TWI è tutto lì, solo che c'ha più celle, nello ZG è proprio singolo, no? Proprio ai minimi termini, diciamo, questo si dice si è fatto un po' meglio, lo fa anche la Midland, identico, cambia solo il nome. Ah, una domanda, le bobine sono in aria o sono sul circuito stampato? Oddio. No, sono sempre fissate sul circuito stampato. Io ho visto che ci sono bobine, il rame e condensatorini, mi pare, sì. è che l'ho visto tanto tempo fa aperto, una cosa del genere. Sì, ma è roba economica, mi roba, costa 25 euro, massimo 30. Magari non è terra a terra come la ZG, sarà qualcosa in più, ma non è professionale, è sempre roba da baracchini, da baracchini. No, perché mi fanno ridere queste prestazioni dichiarate, quando sento 80 dB mi metto a ridere, cioè come le antenne, Mantova 6 dB di guadagno, cioè si dirano cose, cioè, cose che non possono mai esistere con questi giocatori qua. Per avere 80 dB di coso, di guadagno, di attenuazione devi costruire una cosa talmente particolare, perché non deve solo attenuare le coso, cioè se no ti attenuerebbe anche il segnale di coso pulito, cioè deve attenuarti solo le armoniche e basta, deve essere calcolate. No, io le avevo costruite anni fa per la frequenza bloccata, 8808 calibrato, ed è un lavoro, tu non hai idea cosa vuol dire costruire un filtro, mi sembra 2 celle l'avevo fatto, costruirlo dentro dal rame, fare i pannelli di rame, stagnarlo dentro, tutto quanto, li vengono già pronti, però un filtro a coso, diciamo un certo pregio, costa soldi, infatti quando sento 80 dB sarà al massimo 30 dB ti tira fuori, e poi bisogna vedere cosa tira di attenuazione a te, sarà fondamentale. Non attenuano un cavolo, io ho messo il filtro ZG più quello di Marco e disturbavo ugualmente, con due filtri anti-guai non dovevo entrarli, eppure entravo lo stesso, con 3 watt, questo qui lo stesso in questo momento sto dando 3 watt, però c'ho il Rosmet attaccato, il commutatore d'antenna, quindi sono già attenuato così. Allora, tenete presente che quei filtri, quelli a celle, coso, quelli sul circuito stampato, diciamo, sono cose molto, ma molto relative come attenuazione. Se sul circuito stampato si arriva a 20 dB è pure troppo, però bisogna vedere anche la perdita di inserzione del filtro, perché quelli a celle, quelli normalmente come bombine ad aria, hanno delle lavorazioni particolari, delle cose molto particolari. Il problema non è solo le armoniche, perché le armoniche magari te le attenua, però se l'apparecchio genera delle spurie, le frequenze spurie, e quel filtro è calibrato per lavorare, per dire, sulla seconda o terza armonica, per dire il multiplo di 27, per cui sono 50, quanto sono? 50, 55 più o meno, 27,5 fa 55, devo lavorare sulla seconda armonica, però se c'è una spuria, per dire, che ti esce anziché a 27, ti esce a 40 MHz o a 50 MHz, non serve a niente quel filtro. Sì, lo so, ma infatti è tutto a livello teorico. Ci vorrebbe strumentazione minimo, Rode Schwarz, a fare tutte le misurazioni, a vedere cosa filtra e cosa non filtra. Io, e poi sai perché l'ho messo, beh, qua è successo che nell'altro 3009 il cavo rigido, il 213, no? Sai, flat 10, no? Ma anche spostamenti piccoli di questo tavolino dove c'è il baracchino, mi avevano rovinato il filtrino interno del 3009, dell'altro, proprio dissaldato, poi era tutta una cosa saldata, elettrosaldata, non... per evitare di rovinarmi anche questo, che una volta che si sfascia il filtrino interno a TTY non risponde a certe normative, e allora ho messo lo spezzone, già che c'era, ho messo il suo filtro perché, per evitare polemiche ho avvicinato, lo sai come funziona, no? Sì, ma il problema lo sai che cos'è? Se tu esci solo con l'apparato, per dire, ti dà una cosa, un'armonica di 0,5 watt, poi l'attacchi all'amplificatore, se parliamo di seconda armonica, tornando delle misure così, ti guadagna, per dire, 6 dB, quindi quei 5 watt, 0,5 per 4, 20, sono già 2 watt la seconda armonica, per cui il filtro vuole messo prima dell'amplificatore, mai dopo, e poi eventualmente ne metti anche uno dopo, per quelle che genera, perché anche lo stesso amplificatore genera delle frequenze armoniche sue di per sé, armoniche e spurie allo stesso tempo, per cui tu prima di tutto devi fare in modo che esca il più pulito possibile l'apparato, diciamo il baracchino, in modo che le attieni il più possibile le armoniche, diciamo la seconda armonica, anche quella che dà più fastidio, poi quelle che entrano sulla TV sono le terze, le quarte armoniche, per cui sono frequenze molto ma molto basse, frequenze, scusa, potenze molto ma molto basse, però se tu attacchi un amplificatore e per dire ti escono 0,50 milliwatt o 0,05 e li attacchi un amplificatore basta mezzo watt, neanche 300 milliwatt vicino all'antenna, anche se sei a 5 metri e puoi creare il disturbo. Ma per forza, se il baracchino ha le spurie, l'amplificatore amplifica anche quelle. Sì, capito. Ma poi se avete modo di, qualcuno c'ha un analizzatore di spettro e cose, provatele queste cose, o anche guardare su internet, vi rendete conto come funziona tutto il discorso. Per cui questi giocattolini che si mettono, queste specie di, quelle chiamate stufette, alla fine sono generatori di coso, di spurie e di armoniche. Per trovare un apparecchio bello efficiente devi spendere tanti ma tanti soldi e ce ne sono molto pochi in circolazione. A quel punto è meglio magari metterti un valvolare che crea meno problemi, una valvolare decente, diciamo, e qualità prezzo, ha delle prestazioni molto superiori a uno di questi trasistorizzati che io li chiamo giocattoli. Sì, infatti sono veri e propri giocattoli, generatori di spurie e anche di calore, perché alla fine sono stufette a tutti gli effetti, fanno veri calore e infatti a me piace uscire liscio alla fine. Tanto in città si sta di nuovo assottigliando un po' la frequenza. Io ho poca gente, sto entrando a poco, però sul 10 sto sentendo molto meno traffico. E la lascio come monitor anche con lo squelch. Ma di nuovo sta, vabbè, giustamente dobbiamo uscire, chi lavora giustamente tornato a lavorare. Mi sto ripetendo troppo, però l'ho già detto prima. Sicuramente poi col bel tempo poi qualcuno va a farsi dei giretti, me compreso, diciamo, c'hai meno tempo da dedicare, magari rientri poi la sera tardi, non c'è nessuno, ma qualcuno già rimarrà, dai, speriamo bene, soprattutto per i nuovi arrivati, tipo Riccardino che c'ha molto entusiasmo. Oggi non si è sentito Riccardino? No, nulla. Infatti non avevo sentito, guarda, avevo sentito esclusivamente quando sono entrato a parlare Gianni, Tino, Luca che sa, vabbè, da Farato, e chi altro? Capri che dovrebbe essere ancora qui, lo stiamo forse lasciando in via, però non è normale, cioè con 1,5 stazionarie passa da 8,5 a Santiago 4, non è possibile, c'è qualcosa che non sta andando lì. Capri, ci sei? Cioè è abissale la differenza qua, proprio abissale, qua si sente anche, lo noto molto perché sono più in basso Antonio e Roberto rispetto a te, cioè te arriva 9 qua e 4. Aspetta, prova a chiamare attenzione Capri se copri questa piccola stazione. Nulla, ma io più che stazionare a 1,5 io sto pensando che magari l'apparato non sta dando potenza, cioè sono quei sommer campo vecchi, addirittura escono con un watt, magari era in posizione minima e un watt può essere plausibile il discorso di un'attenuazione così di segnale. Perché le stazioni alle 1,5 quanto puoi perdere il 4-5% di potenza, per cui se ne hai 10 magari quanto ne perdi, pochi milliwatt. Vediamo come le sta misurando le stazionarie. Io per quale strumento le sta misurando, magari di quelli ZG che non misurano un tubo, magari c'ha qualche problema all'antenna anche. Ah, Natali, scusando, ma quale microfono non ti stava funzionando? Ma quello di serie o quello da tavolo? No, questo qui, quello da tavolo, non usciva più. Riccardo, tu? Positivo a Campa Ruggero. Qui è arrivato Riccardino, si parla del diavolo e sputano la coda, le corna. Vabbè, Riccardo. Stavo facendo misurazioni e devo ordinare altro cavo 213, non basta. E cosa devi fare? Stavo misurando dall'antenna che devo mettere sul tetto di casa a scendere giù per fare tutto il tetto e scendere la colonnina. E praticamente sono 25 metri, io ne ho 15, 10 metri in meno. E beh, con le braccia, allunghi le braccia, ti metti il microfono fuori. E fai tu da antenna. E così anche direttiva. Ti metto a te la direttiva. Vai, Coccuomane. Sei il Coccuomane. Mi è Coccuomane questo Riccardo. Beh, non siete passati in officina, Riccardo, devo dare quelle fotocopie a tuo babbo. No, siamo passati perché era di fretta, babbo che stavamo sistemando, che doveva venire anche gente a casa perché sai, saprai chi che stava sistemando il decoro, non c'è riuscita, ha detto che ripassa domani perché doveva andare via, capito? E niente, quindi non siamo riusciti neanche a passare. Cioè non siete riusciti a collegare il decoro? No, ancora no, perché è arrivato, sai, e l'hanno chiamato subito che per questioni di famiglia e così è dovuto andare, capito? E ci è rimasto pochi minuti, è per quello. Ah, non è che ha avuto difficoltà nel collegamento, perché è semplicissimo, era già soltanto utilizzare la cosa passante, l'uscita passante del posizionatore, l'attacchi al decoder e poi dal decoder vai come vuoi tu a televisione. Ho già lo sa fare perché dovuto andare via subito. Sì, ho capito, ma anche tuo babbo lo potrà fare, è abbastanza semplice. Una volta che siete sicuri, dice Fabio, mi ha detto che col come si chiama, col ricevitore posizionato, come si chiama? Il misuratore di campo portatile, il segnale era pulito, c'era abbastanza anche forte come intensità, e per cui una volta che sei sicuro che c'è il segnale non devi fare altro che attaccare il decoder e poi attaccarlo al ricevitore, al televisore. Non so, però non stava dando perché si accendeva, diava tutto quello e doveva dare il menu, altre cose, uno e l'altro, non mi ricordo cosa doveva dare e non stava dando e dovrà provare, non lo so perché non stava dando segnale il decoder su SCART. Dai, Fabio già è bravo, già te lo fa lui. Se poi non ha tempo di farlo mi avvicino io 10 minuti, già è una cosa abbastanza semplice. Ok, avanti Marco Pondo. Ciao Ricca, mi stavo mangiando qualcosa di dolce nel frattempo, ben entrato. Che altri c'è? Natalino solo. Luca, puoi parlare o stai ancora operando a cuore aperto? Se non c'è stato, ma lui vado. Sì, comunque. Io a Luca non l'ho ancora sentito. Vediamo se invece Capri ha fulminato qualche cosa. Attenzione, Capri da muro, se ci sei batti un colpo. Se questa roba tutta miniaturizzata. Ma anche computer, mie robe, i portatili, cioè. Io ricordo che nel mio, quello dell'anno 3, ci avevi dietro, a parte la batteria era estraibile, no? Ci avevi proprio lo sportellino apribile per l'hard disk, per la RAM, ma anche per altre cose, insomma, tutti gli organi, quasi tutti gli organi di un computer. Questi di adesso sotto sembrano delle lapidi, tutto liscio, non vedi nulla, batteria non estraibile, cioè come i cellulari, devi dare l'assistenza o un tecnico che ci sappia fare, tutto sigillato, manco le viti vedi, è una cosa allucinante, perché le viti sono nascoste sotto due strisce di gomma lunga, che praticamente sono i piedini in gomma lunghi. Delle strisce di gomma. Ho fatto prova a chiamare quando tu stavi parlando, se c'è Capri, se vuole entrare, se ha risolto. Avanti Capri. Stavo prima Gianni, stava andando bene e poi è scomparso. Ma ha parlato questo Sommer Camp, non ho capito, che si è abbassato tanto di segnale e lui ha detto c'è la stazione V5 e ne dubito che crei problemi così gravi. E secondo me magari c'è qualcosa solo sul PL che magari non sta stringendo, non lo so. Scusa un attimo. Vabbè, sì, praticamente stava parlando con il Midland, la LAN 48, e stava andando male, poi si è messo nel Sommer Camp, stava andando bene 5 minuti ed è scomparso nell'etere. Oh, io arrivo tra poco, dai, ci sentiamo tra qualche minuto, stacco un attimo. Oh Marco, lo sai, ho trovato un microfono Midland di quelli neri che li attaccavano agli Alan 48. Il Midland, non mi ricordo la sigla, il DM, aspetta com'era, dimmela se la sai. No, non la so, ma c'ho Midland 4190, MDL 4190. Quello, bravo, sì. quello è, avevo fatto il confronto con tanto di foto rispetto al DMC 507 Lafayette. E in quello Midland c'era la capsula era chiusa in un guscio di plastica chiaro con dei forellini in cerchio, no, che per portare l'audio alla capsula. Poi la griglia era più piccola, la griglia di plastica frontale, mentre nella Fayette era molto molto più grande. Qua purtroppo dal forum hanno rimosso tutte le foto perché hanno cambiato il modo di mettere i video e le foto sul forum. Però sull'hard disk dovrei averle quelle foto. Vabbè, che lo sai, l'avrei già visto tu di persona, come, quindi. Poi ce l'ho qua, Midland MDL 4190, Made in Cina. Tutto Made in Cina, è tutto. Una volta ti ricordi Giappone, poi Corea. Ti dirò, questo baracchino credo che sia fatto, sai dove? Non nelle Filippine, in Malesia. C'era, sì, tanti anni fa, quindi hanno iniziato Giappone, Corea, Filippine e Thailandia, non mi ricordo in quale ordine, adesso tutto Cina. Sembra che sia una nazione tutto fabbrica, è una cosa impressionante. È veramente impressionante. Ma anche qua da noi non dormono mai, cioè stanno all'ora di pranzo, mangiano anche sul lavoro lì. I cinesi sono incredibili, guarda. Occhio che ci metteranno sotto i cinesi, che sono anche 1 miliardo di persone. Vai, ricatto. Sì, grazie Marco per il mic. Sì, lo so, domineranno il mondo i cinesi. Già lo so, hanno un sacco di fabbriche ormai, l'etichetta made in Cina, made in PRC, tutto Cina ormai. Sì, ma per esempio anche gli Apple, i telefoni, naturalmente lì la tecnologia, presumo che ci siano comunque componenti americani, tipo Texas Instrument, no, qualche microchip. E una cosa invece sono quei prodotti che hanno i cinesi qua, roba a basso costo, questi negozietti cinesi, no, proprio terra a terra. Bene, vediamo se Roberto è rientrato, non credo però che sia già rientrato. Prova. Ha detto che si assentava un attimo, non lo so. Ma l'attimo è passato, cioè come lo dico è già passato l'attimo. Gatta, e se no Riccardino mi ha fatto spavento di quanto è alto e grosso, io credevo che era piccolino, e invece è alto e grosso. Oh, ha sviluppato. Riccardi, troncagli le ossa a Natalino. Me l'ho temuto, l'ho conosciuto l'altro giorno, è alto e grosso. Sì, dalla voce non si direbbe, la voce è molto giovanile, molto molto giovanile. Oh, per lui. E per poco mi tronca le ossa. Ah, Natalì, tutto tace laggiù. E dove? Spiegati Marco, non ho problemi. Lì, e dove sei tu, lì, le antenne che dovevano essere rimosse, tutto fuffa era. Oh, uno è salito, ne ha tolto un'antenna, ne ha tolto. Di quelle di loro però, le mie non le hanno toccate, e ne ha messo una nuova, capito? Sempre dello stesso tipo però nuova, di quel tipo vecchio. Però tutto tace, nessuno si è lamentato. Qua. Ehi, speriamo gli abbia cambiato tutto, cavo, io la chiamo la scatoletta, vabbè, miscelatore, già hai capito. E sarà salito uno che se ne intende, gli avrà cambiato l'amplificatore, i cavi di tutte e due le antenne, e l'avrà pensato come si deve per non essere disturbato, penso, Hanno cambiato un'antenna, uno si è messo la parabola addirittura, capito? E cosa vuoi che ti dica? Io, a me mi è andata male perché qua la parabola non prende, c'è il palazzo troppo vicino e gli chiude la vista del satellite, deve essere l'antenna. Eh sì, ascolta, ma quel decoder riesci a metterlo in vendita? Vabbè, purtroppo se l'hai comprato qua, diritto di recesso, più che altro c'è online, cioè se un articolo non ti piace, puoi chiedere, mi pare, rimborso, proprio rimborso, cioè, però qua come lo vedi, lo tocchi con mano, è difficile, dipende poi quanto c'è col negoziante, sì. Vabbè. No, l'ho venduto a Riccardino, l'ho venduto, che se lo devono mettere nel camper. A me mi è rimasta solo la parabola, ma mi venderò anche quella, che cavolo me ne faccio io. E poi il decoder ce l'ho dentro il televisore, io ce l'attacco per il satellite. Se io metto la cam e una carta è come che ce l'abbia il decoder. Però se non funziona l'antenna, che faccio? Vabbè, ma l'illuminatore, per sapere se sta funzionando, si può testare in qualche modo, si può, qualcosa si potrà testare, no? Vabbè, ma adesso ma non credo sia quello, siccome il palazzo, quella parabola è da 80, mi pare. Perché per esempio c'è il bordo del muro che si mangiava una piccola parte di parabola, ma tipo un decimo. Però vabbè, problemi non ce ne sono poi. E comunque l'illuminatore funziona, perché il segnale arrivava al decoder, al 100%, forse pure arrivava, solo che il satellite non riusciamo a prendere l'hotbird, capito? Prendeva altri satelliti, però l'hotbird non riesce a prenderlo. Ora è strano però, cioè alla fine sono tutti... La fascia di Clark, come si chiama? 36.000 km, no, quella geostazionaria, no, cioè il satellite stava fermo. Cioè, se prendi Astra, in teoria dovrebbe essere possibile prendere Hotbird. Oh, va bene. Che te devo di Natalie? Macello, eh. Ok, vai Riccardo. Va bene, Natalie, ma cos'è, se il QRM è basso, o che cosa hai fatto che sei più forte rispetto alle altre volte? Se lo sto notando solo io, comunque di radio, No, non ho fatto niente, e l'apparecchio sta dando sempre i suoi 3 watt, io non ho fatto nulla. Cosa ho fatto? Non posso fare nulla qua, va giù il apparecchio che è omologato, da quei watt lì e basta, lineare non è, non c'ho nulla qua. No, io sto parlando della radio, che il QRM è basso, non lo so, di segnale no, è sempre uguale, la radio come ho detto, me lo sto inventando, secondo te Marco? Non saprei, comunque oggi, per esempio oggi, vabbè, non ci sono tutti i giorni io in radio, però certi giorni c'era un macello della propagazione, sì, che faceva rumore di fondo, oggi sembra abbastanza silenzioso, no, è abbastanza silenzioso, vero Natalia? Insomma, io magari il microfono forse sta uscendo meglio perché l'ho rifatto da capo, ed è normale, senza modifiche né niente, o Marco, è normale. Ehi, ehi, sì, va bene, niente da dire, si sente un po' di TV anche, un po' di TV di fondo. Ehi, dunque vado in bagno e ritorno dopo, ok? Riprendete. E la televisione è bassa pure, però la prende, non c'è nulla da fare questo microfono. Prende la roba in lontananza. Sono sempre stati in. Riccardo, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Comunque, come ho detto, la radio va meglio. Vedi che hai cambiato hai sistemato il microfono, comunque sta andando bene, va meglio così. È quello vecchio mio. Ne ho uno nuovo che non ho usato neanche, perché c'ha l'attacco a 8, gli ho fatto, no, per quell'altro omologato che ho. però non lo sto usando, l'ho tolto, l'ho messo in scatola e ho il microfono che è in scatola praticamente. Posso dirti già da ora che la parte è con nuovo, nuovo tornerà come prima. La portiera e mi sto usando questo vecchio che ho. Allora hai sistemato bene. E mi fa piacere che stia uscendo meglio, là. Se poi mi sta dicendo che si sente anche la televisione vuol dire che già amplifica. No, già sta amplificando bene. Sì, abbastanza. Chiara gara. E purtroppo questo apparecchio non lo posso aprire perché è omologato, lo devo tenere così. Se no, se lo apro posso perlomeno aumentare la radio, ci sono i canali, infatti il selettore delle bande non funziona perché è bloccato da dentro. Però se lo apro se ne accorgono che è bloccato e perdo la garanzia, che è aperto e perdo la garanzia, capito Riccardo? Quindi lo lascio così che l'ho comprato nuovo questo. No, non c'è problema di aprirlo, se sta andando bene hai un buon Santiago, una buona radio, che cosa vuoi di più? Infatti, lo lascio così questo, chi me lo fa fare? Oltre che omologato perdo anche la garanzia se lo apro, perché questo l'ho comprato nuovo. La posizione in cui ti trovi, stai arrivando benissimo qui, altro che satellite che non prende, qui vai benissimo, va bene, non è lo stesso cosa. E se alzo l'antenna, se riesco a alzare l'antenna, allora sì che esco bene, perché esce un metro dal tetto, quindi non sta andando bene, manco l'antenna, vorrebbe alzata almeno un 2 metri di più, capito? Se l'alzo 2 metri lo vedi come pompa. Scappa, l'antenna è importante, tutti da quando è iniziata la carriera mi dice dicono gli americani, $1 per la radio, $10 per l'antenna. E quello è vero, se non hai l'antenna non hai nulla, tu puoi avere qualsiasi apparecchio, il più sofisticato che esista, ma se non hai antenna non fai nulla. La sapevano lunga gli americani. Loro l'hanno sempre usata queste apparecchiature qua, anche perché sono distanze enormi che ci sono e quindi molta gente ce l'ha anche in macchina, anche per sicurezza, capito? Esattamente, Natale. Infatti perché hanno quei motori così grossi, quelle macchine americane, perché devono percorrere parecchie miglia e quindi devono avere macchine affidabili. Natalino, a noi lo stai dicendo. E io non te lo dico perché lo sai già. Però ti stavo facendo il discorso, no? Perché hanno queste cose così, per quel motivo. No, già lo so, perché devono macinare i chilometri. Infatti sono motori grossi, quelle macchine. Marco è andato in bagno e si è perso. E adesso ci scende dentro. Dai, non trova l'uscita. A te l'immagini che Marco ci ha creduto che di alto e grosso. Già lo so, però non lo diciamo che è in ascolto, tanto torna subito, non penso che ci sta mezz'ora. Marco, tu non hai sentito niente. E lì perché secondo te ci ha creduto? Non lo so. Parla. Riccardino? Concetta, cosa? Mi dica. Allarmi del tu. Ascolta, tanti saluti ti do. Grazie, altrettanto. Prego. Oia, eccomi qua. Sei riuscita a tornare, l'hai trovata la porta. Per non fare la fatica di siccome io bevo molta acqua, Ricca, per non fare la fatica di andare avanti e indietro, mi vorrei mettere il catetere. Così posso stare al baracchino 24 ore al giorno senza mai andare in bagno. Ehi, una pompa collegata col water, ti metti. vabbè, si scherza, dai, sì, anche lì è proprio fastidioso il catetere, Natalia, per carità, non lo posso dire, la parte più fastidiosa dei ricoveri in ospedale è stata. Marco, per quello ci abbiamo ancora tempo. E anche Gianni gliel'avevano messo quando era all'ospedale, anche lui si è lamentato. Sì, perché cioè, quando te lo mettono sei anestetizzato già, ma quando te lo sfilano brucia un bel. Poi anche più a qualcuno più, a qualcuno meno, a me è proprio fastidio, guarda. Adesso faccio salutare a Riccardino da Kurt. Kurt, saluta Riccardino. Dai, salutalo. E la Bagenia vanno. E a Marcolino lo saluti. Sentito? Ehi, a Kurt, morsica le uvoline di Natalino. Ah, ancora rudo, un po' di